l'ascensore è rotto e mi tocca salire. Tra calzotti e sottigliezze ho montato un tetto di certezze. Mai più vecchie debolezze, questa qua la prima cosa che farò. Squali e cani sciolti e vacche magre, vermi conti, mi fan buona compagnia. Non riesco a seguire una dieta, non sono un poeta e mi sento morire. Se torno la sera alle 8, l'ascensore è rotto e mi tocca salire. Se sapessi soddisfarmi, non sarei qui ad imbracciar le armi. Dare un peso a questi anni è questa qua la prima cosa che immediatamente da lunedì comincerò.